come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui alle 18.36, 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Ancora i nostri punti di riferimento, i messaggi sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i telegiornali, TG2. Da Damasco l'appello del Presidente della Repubblica alle forze politiche, superare le conflittualità anche in campagna elettorale, e spiega: non ammonisco, io pongo problemi. Il governo vara la nuova campagna di incentivi ai consumi, sconti per l'acquisto di moto elettriche ed elettrodomestici, stanziati 300 milioni, altri 120 da sgravi fiscali. Il processo d'appello per la strage di Erba, il procuratore generale chiede la conferma dell'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, per l'accusa basta solo una delle tante prove per condannarli. I traffici criminali dei casalesi al nord, al TG2 le registrazioni dei colloqui del boss Michele Zagaria, latitante da 15 anni che dava ordini ai suoi uomini sulle estorsioni. Studio aperto. Sesso, abiti firmati e uno stipendio di 12.000 euro al mese, così l'imprenditore Tarantini si sarebbe comprato i favori di Frisullo, l'ex vicepresidente della regione Puglia. In carcere da ieri, l'esponente del PD sarà sentito nelle prossime ore dai magistrati. Il governo dà il via libera agli incentivi, il premier Berlusconi: stiamo uscendo dalla crisi, lentamente ma meglio di altri paesi. Poi torna ad attaccare le decisioni di alcuni magistrati: con questa giustizia, democrazia in pericolo. Olindo e Rosa meritano l'ergastolo. Al processo d'appello per la strage di Erba, l'accusa chiede di confermare la condanna in primo grado, mentre le foto del piccolo Youssef ricostruiscono il film della strage. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Nobile e giusto, tu ci piaci per questo. Berlusconi scatenato, ogni giorno ce n'è una e ogni giorno torna all'attacco sull'universo mondo. Bisogna dire che è una campagna elettorale tremendamente simile a tutte le altre campagne elettorali. Sentirete parole che probabilmente potremmo trasporre in un'altra campagna elettorale, 2004, no, anzi 2004 non c'era la campagna elettorale, 2006, 2005, 2000, regionali, locali, politiche, sarebbe esattamente la stessa cosa. Qualche chicca ieri da Napoli che vi è sfuggita forse, oppure no, per esempio l'elogio della Carfagna in questo modo, sentite. Vedo qui Mara Carfagna, che conoscete bene, posso essere, mi permettete di essere inelegante? Me lo permettete? Mara Carfagna, bella, dolce, intelligente, ma una donna con le palle! E in sottofondo c'è sempre un tizio vestito tipo da messicano, con una bandiera dell'Italia, di Forza Italia, avvolto nella bandiera del PDL, non ricordo bene, che sbatte degli strumenti musicali. Silvio per noi. I comunisti, poi è una costante questa qua, anche a Napoli vede un cartello a un certo punto tra la folla, tra il pubblico, e parte. Scusa, ho visto un cartello che mi ricorda un qualche cosa che ho presente mattina, pomeriggio, sera e anche durante la notte. Silvio, ci devi liberare dai comunisti, sono qui per quello! Ancora i comunisti. I nostri uomini non hanno avuto nessuna responsabilità, non hanno avuto nessuna colpa. Sono stati impediti da presentare le liste a Roma. Ed è venuta fuori la loro vecchia abitudine, quella che avevamo già visto nel 94. quando con la magistratura avevano fatto fuori tutti i partiti democratici ed occidentali dal Partito Socialista, alla Democrazia Cristiana, che a causa degli interventi dei magistrati di Milano non erano stati neppure in grado di... E via con la magistratura, eccetera, eccetera. Però prima di farvi ascoltare un altro Berlusconi su Santoro, a grande richiesta, perché me lo chiedono ancora oggi, già ieri c'erano un sacco di messaggi, il finale della trasmissione di Oscar Giannino di ieri mattina, non questa mattina. Oscar Giannino su Berlusconi, sentite. E la mia opinione personale, me ne assumo la responsabilità, è che invece forzando i toni, come temo che Berlusconi vorrà fare e farà, renderà ancora più evidente la difficoltà di quell'uomo col suo elettorato più moderato, che si è stufato di dover rispondere all'appello di una specie di difesa degli interessi di Berlusconi. Lo dico molto duramente ed esplicitamente, sono 15 anni. Questa storia o produce effetti di governo e cambia gli ordinamenti, oppure non vale più la pena di essere sposata per chi è moderato, non astenendosi, con comportamenti di voto. Io non sono tanto per stare a casa, io sono però perché 15 anni siano 15 anni e perché gli interessi collettivi per chi è moderato valgano di più di interessi, per quanto importanti, ma che restano privati, punto. Questa è la mia opinione, è la mia opinione, non la vostra, ma rispetto alle posizioni di chi in politica non può dire fino in fondo come la pensa, ma tanti italiani penso che la pensino anche così e sono un po' stufi di dover ogni volta sentirsi dire al voto, perché il povero Berlusconi è in pericolo. Ma di quale pericolo stiamo parlando? Scusate. Oscar Giannino, numero uno assoluto. E andiamo a sentire Berlusconi su Santoro. Via. Fare dei processi in una trasmissione del servizio pubblico, intervenire con attori che leggono le varie dichiarazioni degli altri, far dire dalla voce di qualcuno le cose che altri hanno detto, senza che questi altri, tra l'altro già sottoposti a processo davanti ai giudici, possano lì difendersi, è un'ignominia che non si può tollerare in un paese civile. E questa è l'ignominia di oggi. Ieri era tornata ancora su Santoro. È una campagna elettorale in cui il leader della sinistra sembra Santoro, incredibile, da parte di Berlusconi. 800 24 00 24. Sentite adesso Serena Dandini ieri sera con Santoro, perché l'espressione la potete vedere, magari l'avete vista, insomma il tono della voce, il modo in cui si rivolge a Santoro: ma torni, vero? Torni da mamma Rai. Non possono pensare che con le proibizioni, con le cose, insomma, poi gli stessi che ci hanno ammorbato col vietare, vietare, insomma, vietato, vietare, ci hanno spiegato che è vietato, vietare, e mo non ci possiamo... Però mi rassicuri, dopo le elezioni mi torni in onda, per piacere? Dopo le elezioni? No, perché dobbiamo pagare il canone e tutto quanto, dico, il giovedì dopo le elezioni... No, dobbiamo pagare il canone, questo ecco, è un messaggio chiaro. Il giovedì dopo le elezioni, dopo che... hai fatto Urbi e Torbi, poi torni alla Rai, a mamma Rai. Va bene, basta con Berlusconi, poi ci sono i vostri commenti naturalmente, ma Daniela Santanchè che è esterna da sottosegretario all'attuazione del programma, e effettivamente aveva ragione il ministro Rotondi quando diceva, beh, insomma, lei è una grande comunicatrice, eccetera, però provoca qualche scompiglio, perché quando sostiene, per esempio, che bisogna fare come in Spagna, poi non so bene se in realtà sia legale, cioè i bar della prostituzione, sentitela. Devono essere parte della città e quindi non un posto specifico, ma individuare, voglio dire, la Spagna, ad esempio, trovo che ha una legislazione in questo senso che mi piace. Cioè ci dice ci sono questi ristoranti, questi bar dove al piano di sopra ci sono delle stanze che vengono usate appunto per questo, regolamentate, dove possono farsi meglio i controlli, dove non ci sono più la tratta delle schiave, dove non c'è più il problema delle minorenni, dove non c'è tutto questo. Insomma, bar e ristoranti a luci rosse, la legalizzazione della prostituzione. Naturalmente qui alla Zanzara siamo d'accordo al 100%, per carità, bisogna vedere se è d'accordo il governo di cui fa parte la Santanchè. Ancora Santanchè a Klaus Condicio, da Klaus Davi, sentitela. Questo è sbagliato, la pausa caffè credo che sia veramente una cosa che non è contemplata. In che senso, spieghiamo? No, non è contemplata perché cosa fa? Uno smette di lavorare, fa mezz'ora per andare a bere caffè. Ma credo che sia un po' eccessivo questo. Quindi... Ma questo voglio dire, è sempre dalla capacità degli uomini, no? C'è chi nel nostro paese lavora moltissimo, ha molta voglia di lavorare, e c'è chi non ha voglia. La pausa caffè, io non riesco, l'eliminazione della pausa caffè, ma non c'è nient'altro a cui pensare, cioè, la pausa caffè, bah. Non ti sopporto più, davvero, davvero. Beh, sapete che vi dico che io questa storia delle liste, dei ricorsi, contro ricorsi, il TAR, il Consiglio di Stato, non la sopporto più, è una storia infinita. Adesso pensate che può accadere una cosa di questo tipo, cioè può accadere che nel Lazio si voti più tardi, e questo perché? Perché all'inizio la lista Sgarbi, che si chiama non so come, era stata tolta. Non era stata ammessa, adesso è stata riammessa, chissà per quale follia, le firme, i controlli, i ricorsi, i controricorsi, non si capisce perché non è stata ammessa sin dall'inizio. E dunque Berlusconi dice, sentite, la lista Sgarbi ha avuto questo rifiuto che è stato poi superato, è stata riammessa, e ha certamente il diritto di poter approfittare di altri giorni di campagna elettorale. Questo è un diritto. Adesso la lista Sgarbi ha rivolto la sua domanda alla Regione Lazio, la Regione Lazio deciderà. E c'è una spaccatura all'interno del centrodestra tra chi vuole, mi sembra di capire, Alemanno, un rinvio delle elezioni, e chi invece questo rinvio non lo vuole. Una cosa ridicola. Giuliano da Bari, buonasera. Buonasera, sono qui. Dunque, io più che altro volevo farle una provocazione in merito al discorso che, poiché l'ascolto quasi sempre, mi sono reso conto che per quanto riguarda il discorso della censura e quant'altro, lei abbia sempre un po' trattato chi sostiene questa cosa un po' con superficialità, e quindi non so se lei rimane sempre di questa opinione o si sente di considerare un po' folli, diciamo così, alla luce insomma delle intercettazioni che dimostrano che il nostro caro presidente intervenga così a piedi tesi, utilizzando termini calcistici, sugli arbitri dell'Agicom. Quindi non lo so, questa è la invito a riflettere su questa cosa, se lei rimane sempre della stessa opinione. Tutto qui. La ringrazio, Giuliano. Glauco, prego. Buonasera Cruciani. Prego, grazie. Dica. Niente, io chiamavo perché, sempre su questo discorso della censura, ieri si parlava di Aldo Busi e lei aveva lanciato una provocazione dicendo: ma non è per caso che è per il fatto di quello che ha detto riguardo le tasse che magari è stato cacciato? Sì, era più uno scherzo, naturalmente. Penso che sia impossibile immaginare. Impossibile. Una controprovocazione. Sì, d'accordo, credo che sia impossibile immaginare che Aldo Busi sia stato cacciato dalla Rai, perché ha detto quelle cose sul governo Berlusconi, sulle tasse, il fatto che Berlusconi non abbassa le tasse. Naturalmente, ma siccome io seguivo anche un'altra trasmissione in cui si parlava di questo fatto di Aldo Busi prima che fosse cacciato, e si parlava di qualcos'altro, si parlava del fatto che lui avesse fatto, mi sembra, nel 96, nel 2003. Sì, nel 96, guardi, noi abbiamo qui a disposizione gli audio di quella trasmissione da Costanzo, ci sono degli ascoltatori che mi hanno... Esatto. Io so che c'è stata una... Sì, una... so che a Roma stanno facendo... Sì, so che a Roma ci sono delle trasmissioni anche locali che stanno facendo una campagna già da tempo, prima che scoppiasse il caso... Il esatto, caso di Busi, esatto, da tempo contro per la cacciata di Aldo Busi. Tutto questo, non pensa che magari spostare l'attenzione su una frase sul Papa che magari è più opinabile rispetto, infatti ha visto anche nei commenti che ci sono stati ieri alla sua trasmissione che la gente un po' si è spaccata, c'era anche chi era a favore di andare contro il Papa. Sì. Non le pare che magari è un modo per spostare l'attenzione e non far fare un processo mediatico in cui entrerebbe anche la RAI e non solo Busi per il fatto di queste affermazioni pedofile, per il fatto che loro già sapevano che questo personaggio comunque aveva... Sì, Glauco, guardi, certo che lo sapevano. Quelle affermazioni furono fatte tra l'altro in un Maurizio Costanzo Show, dunque... Mediaset, non alla RAI, ma questo non c'entra nulla assolutamente. Questo però conferma quello che dico io, quello che dicevo io ieri, cioè che la RAI sceglie Aldo Busi sapendo esattamente quello che è, quello che ha fatto Aldo Busi. Ora, quelle frasi ripetute noi ce l'abbiamo qui a disposizione, francamente sono abbastanza immandabili, forse solo una, più tardi vedremo. è un episodio durante un Maurizio Costanzo Show del 96 che provocò moltissime polemiche. Però a me, francamente, fare una campagna contro quelle frasi lì di Busi del 96, perché Busi non entra all'Isola dei Famosi, peraltro insomma, non mi sembra che ci sia stata questa sollevazione popolare su questa cosa qui, per carità, è legittimo, è assolutamente legittimo, però andare a ripescare quelle cose per dire che Busi diceva delle stupidaggini, sì, diceva delle stupidaggini sull'amore dei bambini, eccetera eccetera, è vero, diceva delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ma questo conferma quello che diciamo ieri, cioè che la RAI sapeva esattamente chi sceglieva, o no? Sì, sì, ma infatti questo, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto lei ieri, ma io ti volevo lasciare questa provocazione perché... No, ma qual è la provocazione? Non l'ho capita, cioè questa storia qui del Papa serve a coprire che cosa, Glauco? Ma non è che ci sia sempre una dietrologia dietro, un grande vecchio che orchestra tutte le cose, cioè che facciamo questo così copriamo quell'altro, ma... La RAI sapeva, tutti sanno quello che ha fatto Aldo Busi, quello che ha detto Aldo Busi nel 96, più o meno, insomma. Da quanto dicono, ci sono anche delle frasi odierne durante l'Isola dei Famosi in cui riafferma questa sua condizione, se vogliamo chiamarla così. Cioè, condizione. Io non credo che Busi abbia mai dichiarato di essere pedofilo, insomma. No, assolutamente, direttamente no, però ha dichiarato insomma che avere dei rapporti con dei 14enni o comunque con dei minori è una cosa totalmente normale perché hanno una sessualità già sviluppata, e questa già mi sembra, sì, guardi, le frasi non ha i limiti. Sì, no, ma assolutamente, per carità. Sono cose totalmente... Ma io volevo solo metterla... Ho capito. Questa perna al fuoco, non volevo assolutamente iniziare a una... un processo alla pedofilia che non credo. No, sia... so che questo processo a Busi viene fatto su qualche radio romana, ci sono petizioni. Esatto. Ci sono state petizioni poi per escluderlo dall'Isola dei Famosi, eccetera eccetera. Grazie. Cercavano la ringrazio. Anche. Grazie. Vincenzo da Milano, buonasera. Cruciani, niente, io andrò subito al punto. Io ho sentito ieri e oggi queste dichiarazioni del presidente Berlusconi contro Santoro, tutte queste belle cose, ma io penso che in campagna elettorale bisogna pensare ai fatti. Io sono un elettore di centrosinistra che purtroppo è molto deluso da Berlusconi, in quanto mi sembra che in questi 9 anni su 15 dal governo abbia fatto ben poco per l'Italia. Quindi dire che... Scusi un attimo, devo chiudere perché c'è il giornale radio delle 19. Eccoci qui, 1918 800 24 0024, il numero per chiamarci in diretta. Andiamo subito a sentire il TG3. Napolitano, basta conflitti tra istituzioni, Berlusconi attacca magistrati e autority, Bersani, il premier vuol comandare su tutto e tutti. Dopo la riammissione della lista, Sgarbi chiede il rinvio delle elezioni nel Lazio, tecnici e ministero al lavoro, centrodestra diviso, con lo sconto ciclomotori ecologici, mobili, elettrodomestici. Arrestato, rinchiuso in una stanza, lo sentono urlare, poi l'ospedale, la morte, succede 2 anni fa, ma la fine di Giuseppe Uva è ancora un mistero. Il suicidio di Pietro Vanacore, il portiere di Via Poma, i dubbi del medico che ha fatto l'autopsia, ci sono tanti lati oscuri. È capocannoniera della Serie A di calcio, per numero di gol ha quasi raggiunto di Natale, ma i suoi scarpini sono numero 36 e guadagna 1000 euro al mese. Va bene, Sky TG24. Sconti per moto, elettrodomestici e internet, ha approvato il decreto incentivi. Berlusconi, nuovo attacco ai giudici, fa tutto meno che governare, dice Bersani. Dalla Siria nuovo monito di Napolitano, basta conflitti in campagna elettorale. Appalti a Napoli, 2 anni a Mautone e Romeo per corruzione, ma la pena è sospesa. Opere d'arte per decine di milioni, il tesoretto di Gennaro Mockbel non finisce più. Erba, in appello l'accusa chiede di confermare l'ergastolo per Rosa e Olindo. Milano, Corriere sbaglia e consegna il carico di droga a 2 carabinieri, arrestato. Medio Oriente, ONU, Stati Uniti, Russia ed Europa premono per lo stop agli insediamenti. Riforma della sanità, Obama incassa un altro sì importante, domenica il voto. Nei quarti Inter CSKA, l'urna di Champions League sorride a Mourinho. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Allora, due grandi oppositori di Berlusconi nelle ultime ore sono cresciuti. Il primo è Aldo Busi, perché poi alla fine, al di là dell'intervento quello sul Papa, va bene, le polemiche, ne abbiamo parlato ieri, c'è stato uno strepitoso intervento di Busi, il più grande direi tra questi, cioè quello su Berlusconi e le tasse, sentite. Io sono una persona profondamente civile, per me per esempio pagare le tasse è un onore, e che io non ho mai avuto un solo centesimo in nero, perché per me pagare le tasse al mio Stato, al mio governo è un onore. Ma non è, e lo voglio ricordare, non è mica questo. L'unico qua? Non è l'unico siamo che paga le pochi, tasse, io anch'io pago le tasse, perché le due Busi. Aliquote, le due aliquote del 23 e del 33, che dovrebbe essere Busi. La prima legge da fare di un governo di destra come il nostro, non è mai stata fatta, quindi se non fanno questa legge delle tasse, meno tasse, ma per tutti, a che cosa è servito Berlusconi? Che cosa ha fatto in 15 anni? Busi. Se non fa questa Buonasera, legge qua, che cosa fa? Silvio realtà. Allora, oppositore numero uno, Aldo Busi. Oppositore numero due, Oscar Giannino, qui da Radio 24, ieri, sentite. E la mia opinione personale, me ne assumo la responsabilità, è che invece, forzando i toni, come temo che Berlusconi vorrà fare e farà, renderà ancora più evidente la difficoltà di quell'uomo col suo elettorato più moderato, che si è stufato di dover rispondere all'appello di una specie di difesa degli interessi di Berlusconi. Lo dico molto duramente ed esplicitamente, sono 15 anni. Questa storia o produce effetti di governo e cambia gli ordinamenti, oppure non vale più la pena di essere sposata per chi è moderato, non astenendosi, con comportamenti di voto. Io non sono tanto per stare a casa, io sono però perché 15 anni siano 15 anni e perché gli interessi collettivi per chi è moderato valgano di più di interessi, per quanto importanti, ma che restano privati. Punto. Questa è la mia opinione, è la mia opinione, non la vostra, ma rispetto alle posizioni di chi in politica non può dire fino in fondo come la pensa. Qua la vita Paperopoli è un gran ballo. Allora, io non ho capito una cosa dell'intervento fiume di Berlusconi di ieri, anche oggi, perché Berlusconi poi sta parlando, ancora sta parlando, per la presentazione del suo libro sull'amore, sull'odio, eccetera. Non ho capito che cosa, questa frase qui, cercate di spiegarmela voi. Se io sono Paperone perché mi hanno chiamato Paperone, perché sono l'uomo più ricco, eccetera, eccetera, loro chi? L'opposizione, i magistrati, non lo so, spiegatemi voi, sono la banda Bassotti. Sì, anzi, mi hanno dato del Paperone in questi giorni. Io sarò Paperone, loro sono la banda Bassotti. Corri, voli in aeroplano. Che vuol dire? Ancora non l'ho capito. Va bene, il regime partitocratico di Pannella è una costante della dialettica pannelliana, anche se sono candidati per un posto che è comunque un posto anche quello occupato da partiti, che è quello della presidenza della Regione Lazio, Pannella grida al regime partitocratico che da 60 anni, eccetera, eccetera. Il regime partitocratico è divenuto la Costituzione di fatto. È bene che si sappia che noi non siamo una democrazia, non siamo uno Stato di diritto, e il sessantennio partitocratico dobbiamo chiuderlo, perché se no ci dà il disastro morale, civile, sociale e di giustizia. Santanchè, poi, il nuovo sottosegretario all'attuazione per il programma, più tardi sentiremo cosa ha da dire su queste proposte che stanno facendo discutere, ma non sono certamente proposte nuove. La Mussolini subito gli ha risposto: ci sono delle proposte in Parlamento, lei si limiti a scaldare la sedia. È stata già fortunata a ottenere la poltrona di sottosegretario. La prostituzione, dunque, il modello spagnolo, la Santanchè lo vorrebbe in Italia, sentite. Devono essere parte della città e quindi non un posto specifico, ma individuare, voglio dire, la Spagna, ad esempio, trovo che ha una legislazione in questo senso che mi piace. Cioè ci dice... Ci sono questi ristoranti, questi bar dove al piano di sopra ci sono delle stanze che vengono usate appunto per questo, regolamentate, dove possono farsi meglio i controlli, dove non ci sono più la tratta delle schiave, dove non c'è più il problema delle minorenni, dove non c'è tutto questo. Santanché, sono d'accordo, è raro, ma sono d'accordo con la Santanché su questo. Naturalmente poi è una di quelle cose lanciate lì nella arena mediatica senza nessun tipo di conseguenza, perché non è che ha annunciato un progetto di legge, mi voglio battere per, vorrei, sì, poi Davi è fissato, per l'intervista alla Klaus Condicio di Klaus Davi, è fissato su questa storia della prostituzione, dunque pungola un po' i suoi ospiti su questo. La sua arcinemica, la Mussolini, già l'abbiamo detto. Sentite invece il guanto di velluto della Santanchè sulla Mussolini. Se io dovessi, voglio dire, sognando, perché sognando, no? Io la ritengo invece che è una bravissima parlamentare, che è da tanti anni che è impegnata, che quindi fa non bene si il proprio vendicherà lavoro. Se un giorno diventasse più la vendetta non mi appartiene, anche perché io non ho memoria, cioè nel senso che non ricordo ciò che non mi piace ricordare, per cui dimentico, rinuove, diciamo, e per cui non posso avere vendetta. Santanchè e Mussolini, il duello continua, 800 24 00 24, Radio Londra, molto breve, però un Radio Londra particolare. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra. Un brevissimo Michele Santoro, perché Santoro immagina il 25 di marzo, in cui trasmetterà da un palazzetto dello sport a Bologna e pare anche su Sky TG24, da quello che sembra come una sorta di resistenza partigiana. Sentite. C'è tanta gente che vorrebbe affacciarsi veramente alla finestra a dire non ne posso più. Quindi questo 25 sarà questo, però sarà leggero. Sarà un canto di liberazione, anche quello, come una volta è risuonato dentro la nostra RAI il canto di quei partigiani che in fondo l'Italia l'hanno fatta, no? Si può dire questo? Si può dire, si no? Si può dire. Okay. Compresi i comunisti, si può dire anche questo, io si lo direi. La mattina... Siamo qui di ritorno alle 19.34, 800 24 00 24, subito ascoltatori, Marco, provincia di Roma. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Prima complimenti per la trasmissione, trovo che è uno dei pochi spazi dove il cittadino comune può dire la sua. Dica pure, grazie. Prima voglio fare una premessa, io sono un cittadino italiano ma nato all'estero, da genitori italiani e quindi acquisita la cittadinanza. Sono in Italia da 10 anni e quindi non mi sento di parte né a sinistra né a destra, sono solo un attento osservatore della politica. Allora? E questa, cioè, io trovo, voglio fare magari un paragone con un film su questo momento politico italiano, con Forrest Gump, quando l'attore Tom Hanks inizia a correre e dopo un po' c'ha migliaia di persone dietro. Io trovo questo momento politico italiano così. E chi è Forrest Gump, scusi? Sarebbe Silvio Berlusconi, certamente. E da chi è inseguito? È inseguito da tutti perché con le sue vicende, con le sue fantasie, perché io non lo so fino a che punto la magistratura è politicizzata, lo vogliono perseguitare. Tutto. Vabbè, ma al di là della metafora, Marco, lei che cosa vuole dire? Non ho capito bene, perché la metafora, Berlusconi inseguito, d'accordo, poi? Io quello che voglio dire è che bisogna parlare di cose concrete, dei problemi che veramente ha la gente. E oggi, sentendo pure la vostra radio, a Padova in un mese e mezzo si sono suicidati 12 imprenditori. E questa non è una cosa da poco, perché io vengo da un paese e questo momento mi sembra che è un film che ho già visto. Che paese è? L'Argentina? Argentina. Va bene, d'accordo, grazie Marco. Luigi da Forlì, buonasera. Buonasera. Dica. Io ho ascoltato Aldo Busi per quanto riguarda il discorso delle tasse, premetto che sono un elettore moderato, e non avevo ascoltato Oscar Giannino, però potrei dire che diciamo c'è un filo perfetto tra le due affermazioni. Assolutamente sì. E io guardi, mi trovo, io che ho sempre diciamo sempre stato un moderato e diciamo ho sempre comunque votato centrodestra, veramente dopo 15 anni non se ne può veramente più ormai. Cioè, le due cose che hanno detto Aldo Busi e Giannino sono perfette, cioè se veramente se uno dovesse esplicitare com'è il nostro momento in Italia, ascolta loro due, e veramente basta, non se ne può più. Perché, cioè, basta, potremmo anche chiudere la trasmissione, dice lei. Perché, no, sì, effettivamente è così. Tra l'altro Aldo Busi dovrebbe più esercitarsi maggiormente a parlare di politica piuttosto che di Papa e di omosessuali. Ma guardi, quella del Papa lasciamo perdere, ma quella delle tasse, cioè, ha detto una delle più grandi verità che si possano dire, cioè che uno può dire. E chi è di centro o comunque un moderato non la può che dargli ragione. Assolutamente, assolutamente. Va bene. Bene, grazie a lei, Luigi. Da Brindisi, passiamo da Forlì a Brindisi, in Puglia, Giuseppe, la Puglia. Buonasera. Dove tutto gira, il centro del mondo. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Prego, Giuseppe, ci dica. Io voglio affrontare brevissimamente il tema Santoro. Sì. Uno, premetto che non sono un fan di Berlusconi, provengo da una formazione. Giuseppe, però, culturale. Mi scusi, lei proviene dalla formazione culturale, noi non capiamo niente perché la linea è disturbata, fra poco la richiamiamo. Roberto da Prato. Sì, Cruciani, buonasera. Buonasera, Roberto, come sta? Bene, da Prato, in un momento estremamente difficile a livello economico, con una novità importante. Che è successo a Prato di nuovo? La nuova amministrazione. Ah, beh, sì, in certo. In modo molto pragmatico, quantomeno sta andando verso gli indirizzi della campagna elettorale in modo concreto, specialmente per quanto riguarda... Che hanno fatto di nuovo? Vabbè, c'è questa politica di attenzione verso l'immigrazione clandestina. Immigrazione e attenzione, che vuol dire? Cioè sono un po' più duri? Un po' più attenti? Diciamo, più attenti, anche con interventi mirati che risolvono alcune problematiche, quale tendono a risolvere problematiche tipo il lavoro in nero, una forma di schiavitù dei dipendenti. Sì. Però volevo intervenire su questo aspetto. Stamani ho sentito l'intervento, ma più che l'intervento mi sembra l'appello di Oscar Giannino. Sì, era ieri, sì. Sì, scusi, ieri. No, è uguale. E mi sembra proprio un appello quasi alle forze intellettuali del centrodestra a venire fuori, perché in effetti, pur riconoscendosi in una politica moderata, veramente anch'io ho difficoltà a ritrovarmi in questa continua bagarre istituzionale, questa guerra continua nei confronti. E dunque cosa dovrebbe fare Berlusconi secondo lei? Ma più che Berlusconi io mi auspico che le forze più intelligenti, moderate del centrodestra emergano per riprendere in mano un pochino il filo della politica. E chi potrebbe essere? Ma a parte il nome scontato a livello politico. Sì, ma bisogna prendere anche i voti, Fini si deve un po' riposizionare rispetto a certe... Sì, sicuramente, ma anche in quella che era Forza Italia ci sono persone che potrebbero in qualche modo riannodare un po' i fili della politica vera, insomma, quella delle cose concrete, perché guardi, socialmente, economicamente appartengo a un certo medio. Ho capito. E insieme a tutta la famiglia benestante ci consideriamo fortunati, specialmente a Prato, una situazione del genere, ma l'aliquota marginale sulla busta paga è una busta paga anche discreta, è del 41%. Lo so, Roberto, ha ragione Busi, ha ragione Busi. Non ho sentito. E dopo glielo faccio riascoltare. La ringrazio. 800 24 00 24. Vittorio Sgarbi, ciao Vittorio, come stai? Bene, tu? Allora, ma che casino stai combinando? Una cosa incredibile. Io? Non tu, per carità, cioè, tu hai fatto i ricorsi, eccetera. Innanzitutto, chiariscici una cosa. Chiarisci una cosa, ma perché ti avevano rifiutato? Tutto poteva essere tranquillo, normale, tu in lista, nei tempi previsti, cioè, ma perché hanno rifiutato questa lista all'inizio? Che dice? Questo è l'indiretta prova che se anche avesse torto Berlusconi ha ragione. Cioè? Spiegami. Nel senso che Berlusconi, rispetto alla sostanza dei fatti, si trova a essere un contendente che non può concorrere, come in un incontro di pugilato, un pugile che non potesse salire sul ring. E questa è la ragione per cui ha tentato in tutti i modi di ammettere la lista del principale contendente contro il PD. Sì. A questo punto è la sua vendetta di vedere che i magistrati sbagliano, perché la Corte d'Appello mi ha tenuto fermo per 20 giorni per riconoscere che tutto era regolare perché hanno contato male le schede. Allora io ho chiamato ieri l'archeologa che aveva fatto la raccolta dei certificati, che erano 2117, e mi ha detto che erano tutti, c'erano tutti, e dico, ma tempo per contarli? Ma sono 20 minuti, eravamo in 5, 20 minuti li avevamo contati. Non hanno avuto 20 minuti, ci hanno messo 20 giorni, per cui per 20 giorni hanno fatto credere a me e a quelli che volevano eventualmente avere una certa propensione per questa lista, che noi non avevamo regolarmente. Ma roba da pazzi, cioè ci hanno messo 20 giorni a fare il riconteggio, sulla tua lista? Sì. Bisogna... questo che prova che se tu chiedi il rispetto delle regole sei il primo a doverle rispettare, è per questo che io ho chiesto la proroga, perché se le regole valgono per uno valgono per tutti. Io perché devo fare una campagna elettorale in 8 giorni e gli altri in 30? Quale sarebbe la ragione? No, ma io i tuoi diritti li capisco, eccetera, però ammetterai pure che questa è una storia incredibile. Cioè, non è possibile che adesso le elezioni del Lazio possano essere rimandate perché i giudici ci mettono 20 giorni per ricontare le firme. Ma è una cosa ridicola. Infatti il PDL era contrario, aveva chiesto a me di non fare la proroga. E Berlusconi, che mi ha guardato con soddisfazione e mi ha visto come un vendicatore. Io infatti ho fatto il manifesto Soccorso Azzurro per il Popolo della Libertà, ho fatto dire la frase che scriverò in un manifesto: meno male che Sgarbi c'è. In sostanza ho detto, beh, Sgarbi ha un diritto, se stiamo parlando di diritti, di pari opportunità, di regole, non vedo perché non deve avere diritto. Lui probabilmente con questo pensa di avere poi... di far riammettere la lista del PDL. No, questo secondo me non lo pensa più, non credo che avrà più questa possibilità, perché forse c'era qualche errore formalmente incorreggibile, ma siccome io l'errore non l'avevo... Cioè, spiegami questa cosa, se si rimandassero le elezioni del Lazio non ci sarebbe... devono rimandare, perché altrimenti è fascismo. No, lo ha detto anche Alfano. Puoi fare una gara con un corridore che non ha una macchina senza motore, cioè non può partire, e un altro che parte 200 metri più indietro, non è possibile. Cioè, secondo te allora, 100 al 100%, non c'è nessun'altra... Secondo me, altrimenti io me li massacro vivi, me li mangio, perché loro possono fare le elezioni in 12 regioni, sì. Questo secondo me interessa Berlusconi, con diversi possibili risultati, 6 a 6, cioè regioni di quattro, oppure anche 7 a 5 per il centro-sinistra, sì. A un certo punto rimangono gli ultimi 15 giorni, quando tutto è finito, però ci sono ancora i ballottaggi di Venezia e di Matera, che sono due grandi città del mondo che andrebbero fatte vedere come Italia, cioè non sono cose marginali, non, è sì. una, non sono due piccole città, Matera è la grande città. Matera un po' meno, sì, comunque. Mel Gibson e Venezia è Venezia. A questo punto si parlerà molto di quello, qui avrai ancora una tensione elettorale per 15 giorni, ma in compenso lui potrà concentrarsi con me sul Lazio e tentare di vincere quella regione che potrebbe aggiungersi a bocce ferme a quelle che vince il centro. Ma vincerla con chi? Scusami, Vittorio. Vincerla con me, perché io sono la sua lista. Il mio rispecchiamento oggi si capiva, mentre lui mi stava di fronte, sì. che di tutte le liste possibili, oltre quelle che ci sarebbero comunque i vari Mastella e Casini non ha niente a che fare con lui, la Polverini avrebbe a che fare, ma è di Fini, quindi la lista Polverini è quella di Fini. Qual è l'unica lista che ha a che fare con Forza Italia? La lista di quello che l'ha preceduto nella storia. Ho capito, ma se la gente vota per Sgarbi presidente, vince la Bonino. No, allora se anche tu sei una capra come Belpietro e come Verdini. Io sono in coalizione. Ah, tu sei in coalizione. Io sono candidato presidente. Ammetto il mio essere capra. Sono capra, dimmelo di più io forte. Io sono una delle liste alleate. Ah, dimmelo più forte. Io sono il PDL. Ah, ecco perché ieri dicevi io sono il PDL. Ma io scusami, io sono capra. Dimmelo ancora. Capra. Allora. Non l'ha capito, né Belpietro né Verdino. Non spiegaglielo. I miei voti sono di coalizione. Io sono. Ah, ecco perché Berlusconi insiste. Soccorso Azzurro per il Popolo della Libertà con Polverini presidente. Ah, ecco. E io in questo casino non capivo più nulla. Hai capito? E la cosa che dicevo con Pannella, da Pannella Sgarbi, l'errore di Pannella fu non essere in coalizione. Cioè noi siamo una variante chic da un certo punto di vista, ma molto precisa, per cui con un'offerta di Mastella, puoi capire, Pionatti, puoi capire, Casini, puoi capire, Storace, puoi capire, restano due aree, Polverini, che sono quelli di Fini e di guarda, se io votassi, se io di Forza Italia, certo. Se io votassi a Roma voterei lista Sgarbi tutta la vita, so che poi non è Sgarbi, so, esattamente, comunque. Tant'è vero che aveva scritto che mi vota Sandro Magister dell'Espresso, e vota chi voglia votare quella componente, perché non sì. vuole la Bonino, la componente cattolica, tutto sommato ha trovato in me sempre uno, come dico ogni vabbè, volta adesso ancora, no, ancora la le cose no, io difendo la legittimità che la Chiesa sì. dica quello che vuole, però torniamo alla questione della lista, della riammissione eccetera, ma cosa manca ancora concretamente, chi deve decidere, la Regione Lazio, chi decide? No, io ho parlato due volte con Esperino Montino, vicepresidente, sì. il quale con la sua giunta deve, consultatosi con Maroni, che spero, essendo ministro dell'interno, sia d'accordo con Berlusconi, se anche Maroni gli dice e non è detto, rimandare, e non è detto, la decisione Non è che lo decide gli interni, vengono consultati, ma sì. se nella consultazione esprimono parere favorevole, io credo che Serino Montino, di fronte all'evidenza della disparità, perché le armi, cioè, voglio dire, il tema è quello delle armi pari. Cioè, tu potresti far annullare le elezioni dopo, naturalmente, se non esattamente, fosse. Perché è evidente che io ho avuto un trattamento di sfavore. Per colpa dei giudici, non per colpa mia. Non è che io ho ottenuto un privilegio o una sanatoria. 20 giorni per controllare le cose correttamente, e loro hanno fatto i conti male. Come si fa a fare i conti male? Io poi non capisco. Ma quanti. Vabbè, che pure io e te non è che siamo forti nei conti, sì. però quelli sono là apposta per contare le liste. Con chi parlavi, Vittorio? Con chi parlavi? No, parlavo col giornale che vuole un pezzo. Per sì, beh, sempre. Certo, per forza. Eccoci con Vittorio Sgarbi. Ma hai detto capra anche a Verdini e a chi ti chiedeva di questa cosa, Vittorio? No, beh, sì. Verdini e Pietro ieri continuavano a credermi fuori coalizione, così distratti che pensavano io fossi un candidato presidente. Infatti anch'io, capre tutti. Anche oggi Verdini cercava di dar torto a Berlusconi, quindi quello che era con me dava ragione a Berlusconi, che era un uomo mio. Verdini perché diceva meglio non rimandare, ma forse è anche vero, però che certo si crea... Chi è che non vuole rimandare? Ho letto che qualcuno nel centrodestra... No, la Polverini, Storace. Storace è chiaro, perché Storace perché pensa che i voti del centrodestra lì vadano nella sua lista, è chiaro, no? Certo, così invece vede distratti i voti migliori, cioè quelli che verranno a me. Va bene, ciao Vittorio, grazie. Quindi tu sai chi votare, io voto in Lombardia, io se no altrimenti non solo ti voterei, ma starei con te in lista con la spada di fuoco così alzata. Cioè. La spada di fuoco, quello è. Sai che ho fatto lo slogan anche, lo slogan è, qual è? Meno male che Sgarbi c'è. Meno male che Silvio. Ah, così, certo, semplice. Cioè, il famoso slogan, meno male che Silvio c'è. Questa volta è Silvio, che è elettore passivo, perché il Presidente del Consiglio o un deputato può votare dove vuole, sì. può votare nel Lazio e votare me. Finalmente ha trovato la sua lista Berlusconi. Si specchiava con soddisfazione oggi. Ma quanto ci hai parlato oggi? Un'ora, abbiamo parlato a lungo, ma lui era molto preciso nel dirmi il tuo diritto è questo e quindi hai ragione a chiederlo. E lo faceva secondo me col divertimento di dire siamo stati così rigorosi con me, non vedo perché dovremmo a questo punto chiedere a Sgarbi di rinunciare a un suo diritto, visto che si parla di regole. Certo, grazie, ciao Vittorio. Poi l'altra cosa divertente è questo, per il Lazio abbiamo ottenuto quello che Pannella non è riuscito a ottenere in tutte le regioni. Adesso dice che è dispendioso, ma lo voleva per tutte le regioni lui. Io almeno la cosa divertente di Berlusconi a guardarmi con questo compiacimento era questa. Dice, tu sei sempre quello che crea situazioni, quindi anche questa volta Sgarbi arriva e crea un caso. Io ho ottenuto quello che Pannella non ha ottenuto, e l'ho ottenuto perché è un diritto, in nome delle regole. Non è che è stato tutto fatto apposta per poi rimandare, cioè no, non si poteva sapere, impossibile. No, è andata così, il destino ha portato questo, destino, ma da ogni punto il di destino. Vista io non ho fatto altro che rispettare le regole, quelle che i magistrati ritengono siano più importanti. E i radicali come hanno reagito? Pannella l'hai sentito? No, ho sentito la Bonino che ha detto Sgarbi in questo modo si spendono più soldi. La volevano fare, volevano rimandare. Ma come? Rimandare. Sono i re dei ricorsi no, e della burocrazia. Adesso non va bene la burocrazia, le firme bisogna contarle. Va bene, grazie, ciao va Vittorio. Bene. Ciao. 19:51 800 24 00 24. Dove andiamo? Andrea da Ravenna, buonasera. Poi Giovanni da Como, Stefano da Genova, Giorgio da Bologna, Alfonso, provincia di Caserta, Giuseppe da Lodi. Andrea, che gabbola, la politica. Buonasera. Dica. Se, finalmente riesco a contattare con lei, che è molto difficile, la sua trasmissione è molto cercata. Niente, ho sentito Busi e Giannino, sì, che allora mi confermano così delle riflessioni che facevo un po' da tempo circa il fatto che effettivamente il nostro premier gioca più per se stesso che per rispetto ai problemi del paese, insomma, no? Tecnicamente si potrebbe definire così un millantatore da un certo punto di vista, sia quando si professa liberale e sia quando teorizza il partito dell'amore. Cioè lei dà ragione a Busi e Giannino, la strana coppia che abbiamo eletto, questa sera a grandi oppositori di Berlusconi, che Bersani, eccetera, Giannino e Busi. Mi è sembrata un'intuizione molto felice la sua. La ringrazio, ogni tanto ce l'ho, ogni tanto, lei, due a settimana. Giuseppe da Lodi, buonasera. Buonasera, dottor Luciani. Dica. Io volevo porre una domanda di questo genere. Tutti questi famosi, diciamo, le ultime telefonate. Lei Giuseppe, lei chiama da Lodi, ma mi sembra che sia calabrese. Calabrese di dove? Scusi, calabrese sono di dove? Di Catanzaro. Di Catanzaro. Catanzaro Lido. Vivo a Lodi da 20 Catanzaro Lido o Catanzaro? Catanzaro Lido, diciamo. Ecco. Catanzaro Lido, è diverso, non è uguale. E lei lo conosce bene anche lei? No, non conosco bene no, però conosco abbastanza. No, volevo, inerente a questo discorso qua che si sta facendo ultimamente, sembra che Berlusconi sia diventato il capo espiatorio di tutto, no? Siamo dimenticati la spazzatura di Napoli, il terremoto, ormai siamo tutti dei critici. Ma sa, Giuseppe, caro Giuseppe, la politica è fatta così, le cose passano, bisogna produrre sempre cose nuove, bisogna riformare, bisogna cambiare le cose, altrimenti si resta fermi. Non è uno che vuole ricordarsi la spazzatura di Napoli, poi c'è la Bindi che fa le foto e ci dice che la spazzatura ancora sta là. Vabbè, ho capito, anche al terremoto le case non c'erano, hanno detto. Franceschini ha dato là, dice le case non ci sono, cioè. E poi io non so chi crede a queste cose qua. No, Franceschini ha detto pure un'altra cosa in realtà, che gli hanno dato il nome, chi era? Bersani, no, in realtà non Franceschini. Bersani ha detto che c'erano le lenzuole, tutte le lenzuole erano tutte uguali. Esatto, quindi diciamo ce n'è per tutti, diciamo. La cosa che a me mi preoccupa di più, che neanche la sinistra accorgendo dopo l'arresto del suo vice lì in Puglia, è che quella persona lì è rovinata, vista i figli che stamattina esce che va con le escort. Se è vero, se non fosse vero, quella persona lì ormai è rovinata, giusto? Beh sì, ma è da tempo, però non è mica la prima volta. Sì, ho capito, però si dà impatto. E poi volevo dire un'altra cosa, il giudice che ha dato ai famosi Travaglio e compagnia Brisco del Quotidiano, come mai non viene scoperto da questi magistrati che hanno così tanta... Cioè, ha capito quello che le voglio dire? Ho capito, Giuseppe, però non è detto che sia stato un magistrato a passare... Anche se è stato un poliziotto o qualcuno, il cerchio è piccolo, ha capito? Se riescono a intercettare... Non so, ogni volta promettono durezza su questo, ma non succede niente. Ma no, ma anche lo scivolone del CSM, ormai l'hanno capito tutti, che non so gli italiani che non lo capiscono. Mi dispiace perché può succedere a tutti noi questo fatto qua. Adesso a tutti noi mi sembra anche questo un'esagerazione di Berlusconi, ogni tanto dice può succedere no, a tutti noi, anzi c'è Fede che ieri adesso, sera, Fede ieri sera, sì, ma lei dice siamo tutti intercettati, guardi che questa qua è una storia che non è così in realtà, Giuseppe, non è che siamo tutti intercettati, non esageriamo, non è così. Io quando sento qualche amico laggiù che mi chiama che dice non parlare così che ci possono intercettare, cioè ormai deve. Lei dice, senta cosa ha detto Fede ieri. Sempre l'incubo però delle intercettazioni telefoniche, abbiamo detto ieri, non è amara ironia, la gente ormai ha paura di parlare al telefono. E lei ha paura di parlare al telefono, Giuseppe? Io quando parlo, le dico la verità, se mi dovesse intercettare dico tutto l'opposto, perché sto aspettando che mi intercettano. E tanto anche se dice una cosa, che succede? Ha capito quello che le voglio dire, ma perché non ho nulla da temere, però delle volte. Ma anche se dovesse dire una cosa sconveniente, che può succedere, Giuseppe? Ma non lo so, perché a sto punto ti buttano, io non sono un personaggio famoso, quindi, però uno che è in politica, mi è piaciuto stamattina il sindaco di Buccinasco proprio da Giannino che ha detto ma io mi faccio mettere in videoconferenza quando parlo al telefono, che forse ha detto una cosa giusta e non è un'esagerazione, hai capito che voglio dire? Va bene, Giuseppe, grazie. Prego, prego, buonasera. Giorgio da Bologna. Buonasera Cruciani. Senta, non so se sono fuori tempo massimo, però visto che avete parlato ancora di Busi questa sera, quindi volevo fare una considerazione sull'intervento della Pivetti, che mi pare fosse... Intervento della? Della Pivetti di ieri sera. Ah, della Pivetti, sì. Giorgio, però la sentiamo malissimo, la dobbiamo richiamare perché il suono è molto disturbato. Giovanni da Como. Buonasera. Dica. Guarda, io volevo intervenire sulla proposta della Santanchè sulla prostituzione. Allora, premesso che posso essere d'accordo con quanti la ritengono uno spottone elettorale. Tutto ma sommato. Spottone elettorale io credo di no, perché non è che si prendono i voti con queste cose, dicendo che bisogna aprire, bisogna fare i bar o i ristoranti a luce rossa. Non mi pare un grande argomento di campagna elettorale. Comunque, insomma. Però vabbè, il fatto che sia uscito in questo momento, quantomeno. Secondo me c'è un solo elemento. Quando i politici vanno a fare le interviste da Klaus Davi a Klaus Condicio, escono fuori queste cose che riguardano il sesso. Davi fa sempre queste domande, il sesso, l'omosessualità, e dunque escono soprattutto queste cose qui. Eccoci qui, 20 in punto, è il momento del TG5. Via libera del Consiglio dei Ministri agli incentivi da 300 milioni, fino a 1.000 euro per l'acquisto di una cucina, sconti fino a 7.000 euro per le ecocase, bonus per moto e motorini Euro 3. Napolitano ai partiti, superare le conflittualità per il bene del paese, plauso bipartisan. Berlusconi, PDL in piazza a Roma per domani per difendere libertà di voto, privacy e per un patto di buon governo. Olindo Romano e Rosa Bazzi meritano la conferma dell'ergastolo, così l'accusa nella requisitoria. In aula si rivive l'orrore della strage di Erba. Per gli inquirenti il killer di Elisa Claps non agì da solo, gli incontri con Restivo, indagato che dall'Inghilterra proclama la sua innocenza. Cavalieri, commendatori, conti e marchesi, gli italiani pazzi per titoli e onorificenze, ma spesso dietro il finto blasone la truffa è in agguato. Tra poco torna su Canale 5 Ciao Darwin, di fronte eroi del reality contro lavoratori. La 7, sentiamo i titoli. Ergastolo per Rosa e Olindo, al processo d'appello per la strage di Erba. L'accusa chiede la conferma della condanna per i coniugi Romano. Per il PG non ci sono dubbi, è stato un omicidio premeditato e feroce. Ancora problemi per il voto nel Lazio, Sgarbi con la lista riammessa chiede un rinvio, Napolitano invita a superare la conflittualità, ma i toni restano accesi con Berlusconi che critica giudici ed Agicom, domani la manifestazione delle PDL a Roma. Appalti truccati a Napoli, 2 anni di reclusione per l'imprenditore Alfredo Romeo e per l'ex provveditore alle opere pubbliche della Campania, Mario Mautone. L'accusa aveva chiesto 10 anni, assolti 4 ex assessori. Urna benevola con l'Inter nel sorteggio per i quarti di finale di Champions League. I nerazzurri se la vedranno con il CSKA di Mosca e domani è di nuovo campionato con i nerazzurri. Bene, 800 24 00 24. Berlusconi, durante la presentazione del suo libro, il suo nuovo libro, quello sull'amore e sull'odio, ha detto una cosa riguardo l'inchiesta di Bari che ha portato all'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Puglia, Frisullo. Cosa ha detto Berlusconi? Con questa giustizia, democrazia in pericolo, e questo lo sappiamo. Però poi ha elogiato il magistrato che ha disposto l'arresto di Frisullo, dicendo: a Bari c'è un vero PM. È la prima volta che Berlusconi elogia un arresto, diciamo così, o comunque l'attività di un magistrato. Dove andiamo? Eravamo con Giovanni, sì, con Giovanni. Eccoci qui, prego. Sì, eccomi, ci sono. Torniamo alla Santanchè. Dunque, qualunque sia l'intento che l'ha portata poi a fare questa proposta, io credo sia giusto parlarne in ogni caso, anche perché abbiamo un problema, noi in Italia come anche in molti altri paesi, che è quello della prostituzione. La prostituzione che vediamo per le strade, voglio dire, dove ci sono delle vere e proprie schiave, cioè proprio una tratta di persone. Bisogna trovare una soluzione, io non credo che la soluzione sia stata trovata fino ad oggi, anche perché capita magari di leggere sulle cronache locali di retate di ragazze caricate sul camioncino, sulla camionetta, pardon, e portate in centrale, ma questo abbiamo visto che non risolve nulla. Ora, io non conosco la realtà spagnola, però essendo comasco conosco, se non... se neppure da vicino, però abbastanza, la realtà svizzera, che è abbastanza simile a quella che descriveva la Santanchè nella sua proposta. Fondamentalmente ci sono questi locali, questi bar, poi lei ha parlato anche di ristoranti, forse lì ha esagerato un attimo, però questi locali dove ci sono queste ragazze che fondamentalmente esercitano la professione. Ora, io non so nemmeno se in Svizzera questa cosa sia... Ma dove questo? Lei dice in Ticino? Sì, assolutamente. Sì, no, ma d'accordo, ma Ticino conosco bene com'è la regolamentazione legislativa in Ticino, cioè, che è diversa rispetto ad altri cantoni Svizzera, ogni cantone ha una sua regolamentazione particolare, ogni zona della Svizzera ha una sua regolamentazione particolare, il Ticino ne ha una, la zona di Zurigo un'altra, eccetera, eccetera. No, per ristoranti cui... io non mi riferivo alla Svizzera, non so nemmeno se in Spagna in realtà c'è la situazione descritta dalla Santanchè. Questo non lo so nemmeno io. Comunque in Svizzera, voglio dire, i proprietari di questi locali hanno poi queste stanze, solitamente appunto al piano di sopra, come diceva la Santanchè, che affittano a queste ragazze. Questo fa sì che ad esempio non ci sia un protettore, non ci sia sfruttamento, nel senso che... Voleva dire Giovanni? Sì, Cruciani, per concludere sarò sintetico. La realtà appunto del voto canto... abusi, scusi un attimo, no Giovanni, scusi un attimo, voto abusi su Blob. Ce l'hai al cervello l'infezione. Basta, è chiuso. Auguri a chi? A Joseph Ratzinger. Ullala, ullala, ullala, questo è il valzer del moscerino. Ullala, ullala, ullala, questo è il valzer che fa la la la. Il tappo sta saltando. Tappo sta saltando, non c'è niente da fare, è inarrestabile. Non possono pensare che con e come gode Santoro quando dice che il tappo è inarrestabile, che è una frase che disse Paolo Mieri durante un suo programma. Allora Giovanni, mi scusi di questa interruzione, ma ogni tanto mi prende così la cosa, vedo le cose che succedono e mi lancio. Allora, lei, torniamo alla questione della Santanchè. Lei stava parlando della proposta, sì, della Santanchè, insomma, le sembra ragionevole o no? Perché in Italia, sì, perché in Italia non si fa mai una cosa che a tutti a parole sembra ragionevole, a tutti, e non si fa mai? Ma secondo me perché su un argomento come questo vengono messe davanti delle questioni morali rispetto alla questione prettamente umana, cioè la prostituzione in Italia esiste, c'è e ci sarà, e non credo che ci sia modo di risolverla, o quantomeno i tentativi che sono stati fatti fino ad oggi non mi sembra abbiano dato alcun frutto. Esiste una prostituzione che tra l'altro è molto più brutta, se così possiamo definirla, di quella che potrebbe essere in un altro sistema come appunto quello spagnolo, che ripeto io non conosco, mi baso esclusivamente su quanto detto dalla Santanchè, dove non ci sarebbero protettori, non ci sarebbe... Vabbè, questo tratta. Non è così, perché poi in Svizzera c'è stata una lunga polemica sul fatto che in ogni caso c'è anche lì uno sfruttamento, perché comunque vengono prese quelle da paesi dove non ci sono i permessi e gli accordi di soggiorno con la Svizzera, eccetera eccetera. Ancora voto abusi, Blob. Quello che era successo, uno ma di che? Ma che c'entra? Ma tu lo sai di che ho parlato? Sì. Ho parlato di una cosa che non... L'unità Aldo Gradimento, Aldo Busi. Questa è un'autentica scemenza. È un'autentica scemenza. Mi assumo tutte le responsabilità di questa mia dichiarazione. Beh, mi sembra meno forte di quella di Busi. Mentre comunque Travaglio sta raccontando, sì, questo è meno forte. Però possiamo dire che adesso Busi, per aver dichiarato quello che ha dichiarato, deve essere espulso da tutte le scuole del regno. Adesso non ti metti a difendere pure... Fai, no, pensa io le cose difendo tue. Anche Busi, scusate, abbiate pazienza. Pensa le cose tue. Lo difendo. Santoro difende Busi, io difendo Busi, basta. Io sono il PDL, io sono il PDL. Ah, ecco perché ieri dicevi io sono il PDL, ma io scusami, io sono capra. Dimmelo ancora. Capra. Questo è Vittorio Sgarbi sulla questione delle liste. Abbiamo parlato prima con Vittorio e ci ha detto che cosa? Che in realtà lui, se sarà riammesso, e sembra ormai certo che sarà riammesso, e le elezioni dunque saranno rinviate in Lazio, vedremo la decisione che prenderà sia il ministro dell'interno sia la regione Lazio, verrà riammesso non come candidato presidente, ma come lista di appoggio alla Polverini, che è una cosa completamente diversa. E secondo lui, naturalmente, tutti i voti che dovevano andare alla lista del PDL invece andranno alla sua lista. Beh, questo naturalmente bisognerà vedere. Giorgio da Bologna, buonasera. La sento forte e chiaro. Meno male. Senta, io volevo intervenire in merito al caso Busi, rispondendo, diciamo, l'interposta persona, se me lo consente, all'intervento della Pietti. Sì. Ora, lei è giornalista, quindi sicuramente saprebbe sintetizzare molto meglio di me il pensiero della Pietti. Io lo sintetizzerei un po' così. Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, nel senso, per quale motivo bisogna tirare in ballo il Papa in televisione, eccetera eccetera, bisogna rispettare il sentimento religioso. È vero, era questo il senso del... Più o meno era questo, sì. Ok. Allora, dato per scontato, come lei ha ricordato, che Busi è Busi, quindi, cioè, voglio dire, se si invita Busi in televisione non si può aspettare che dica qualche cosa che sia diverso dal suo pensiero. Busi considera, Busi non bisogna dimenticare che è un omosessuale, e in quanto omosessuale considera, a torto a ragione secondo me, non complimenti a torto, la Chiesa Cattolica, come uso un termine forte, un nemico. Questo però è sbagliato, Giorgio, perché io non credo che la Chiesa Cattolica sia nemica degli omosessuali o dei gay. Non è un termine corretto da utilizzare, diciamo, ha un'idea della sessualità e dei rapporti tra uomo e donna. No, allora, uomo e donna, insomma, tra i sessi, la Chiesa Cattolica, che è di un certo tipo ed è rispettabile e legittima questa idea. Se l'opinione del Papa è un'opinione, cioè rispettabile. Cioè, non è che promuove, mi scusi Giorgio, non è che la Chiesa promuove le crociate contro gli omosessuali, al grido omosessuali a rogo, A rogo no, però abbia pazienza. A rogo no, dopo il rogo che c'è? Prima del rogo che c'è? La gogna che c'è? Non lo so. C'è considerare una persona in quanto omosessuale disturbata o disordinata, quantomeno, o contro natura. Se permette, però abbia pazienza, queste qua sono considerazioni, come le dicevo, che appartengono alla sfera ho capito, ma non è simpatico che una persona in quanto omosessuale venga appellata come contro natura o disturbata. Questa sarà stata un'offesa, quella di Busi verso il Papa, ma questa è un'offesa del catechismo cattolico nella persona del Papa verso tutti gli omosessuali. Quindi io mi domando perché ci si meraviglia che ha un'offesa, che quel punto ritengo, considerare una persona omosessuale disturbata, disordinata, contro natura, Busi non possa affermare che gli omofobi sono in gran parte dei omosessuali repressi e che nella Chiesa ci sono moltissimi omosessuali repressi, che è una cosa che tutti sanno. Nessuno si stupisce infatti delle reazioni di Busi. Io dico che rispetto a quello che la Chiesa pensa degli omosessuali, le cose di Busi mi sembrano un qualcosa in più, ecco. Busi, ripeto, considera la Chiesa Cattolica un nemico. E dunque, a mio parere, questo al nemico si risponde pan per focaccia. Dice lei. Insomma, direi, lei che dice no? Ma anche no, insomma. No, io non mi meraviglio, però non è che bisogna... Ma scusi, definire milioni di persone disordinate, no, però disturbate... No, come lasci perdere, scusi? Disordinate, disturbate, contro natura, non è un'offesa? No, non nell'ottica della Chiesa non è un'offesa. Bene, non è un'offesa. No, ma non è Devono essere parte della città e quindi non un posto specifico, ma individuare, voglio dire, la Spagna, ad esempio, trovo che ha una legislazione in questo senso che mi piace. Cioè ci dice sono questi ristoranti, questi bar dove al piano di sopra ci sono delle stanze che vengono usate appunto per questo, regolamentate, dove possono farsi meglio i controlli, dove non ci sono più la tratta delle schiave, dove non c'è più il problema delle minorenni, dove non c'è tutto questo. Ministro Rotondi, buonasera. Salve, buonasera. Come sta? Ha visto il suo sottosegretario come se n'è uscita? Sì, ha sentito? Beh, guardi, io sono immerso nella campagna elettorale di Torino, dove sono in pista per la Democrazia Cristiana. Allora? Sono nel profondo nord. No, però io la chiamo perché ho fatto... Dove non arrivano le notizie. Non arriva nulla da Roma, non arriva nulla. Sa, ci sono quelli che fanno la campagna elettorale in televisione e i poveracci come me che guidando una lista improvvisata in sette giorni possono solo collezionare strette di mano. Vabbè, per ma quello il tempo della televisione non resta. È la dura. Cosa è successo ancora a Roma? Allora, cosa è successo a Roma? In realtà succede in televisione, non a Roma. Lei lo sa che ormai la politica si fa in televisione. Lei questo qua lo so. Questo io non l'ho mai demonizzato. Ma da un po' dico che stiamo esagerando, nel senso che la televisione è uno strumento essenziale di informazione politica. E non c'è dubbio. Ma la Costituzione dà ai partiti il compito di assicurare al cittadino la partecipazione politica. Lei che l'altra volta... La partecipazione non è il telecomando. Invece Bersani dice che i cittadini hanno il telecomando per cambiare programma e dunque Berlusconi... Ma paradossalmente, veda... Berlusconi e Bersani hanno la stessa idea della politica, cioè, mi nel spiego. Senso che il mio presidente, a cui naturalmente sono legato dall'affetto che è stranoto agli italiani, molto noto, entra nella politica in un modo diverso da me, perché io sono entrato in politica iscrivendomi alla Democrazia Cristiana, allora dominata da De Mita. E pensi un po', dopo esserci entrato ho detto che De Mita non mi stava bene, ho cominciato a suonargliele di santa ragione con tutti i mezzi che avevo. Però lei è entrato da demitiano, anche no, lei? No, mai. Mai demitiano, mai demitiano. Paradossalmente le devo dire, forse lo sono diventato adesso, diciamo, nella fase finale della vita politica comune, nel senso che oggi riconosco a De Mita una libertà dal potere che certo non aveva quando aveva lui la mia età di oggi e io avevo 20 anni. Senta, lei, è un lei... modo di far politica diverso. Berlusconi entra in politica attraverso una comunicazione diretta con i cittadini. Certo. Bersani, che guida il principale partito d'opposizione, quando dice che i cittadini cambiano col telecomando, entra nella stessa dimensione del mio Presidente del Consiglio, ed è il motivo per il quale la sinistra perde e perderà per un lungo periodo. Ah, lei dice, usando la media... sul terreno dell'avversario, va sul terreno l'avversario dà le carte e lo batte. Ed è più forte. Non perché Berlusconi abbia la televisione. Quel che non capisce la sinistra è che se la battaglia è nella comunicazione, vince il più bravo. E di gran lunga Berlusconi è il più bravo, è uno dei migliori comunicatori della storia. Lei che ci ha regalato l'altra volta quella splendida frase che noi rimettiamo ogni tanto, ce lo perdonerà, quella sul politico fiorentino democristiano famosissimo che disse: beh, le cose in politica, le cose che si dicono, ma sa cosa disse, glielo già detto Sullo, sì, le Sullo. Cose che si dicono in politica valgono nell'ora e nel momento in cui si dicono. E questo è splendido. È inutile rispolverarle dopo mesi, dopo anni, perché non valgono più. Non valgono più. Allora, rispetto alla televisione, per esempio, ci dica qualche altro l'insegnamento dei vecchi democristiani riguardo al rapporto con la televisione. Se lo ricorderà qualcuno, no? Sicuramente qualcuno. Ma guardi, dipende. Voglio dire, ad esempio, che Andreotti aveva un grande successo in televisione. Tutti sanno che Bettino Craxi accarezzava la suggestione del presidente eletto dal popolo, no? Sì, sì. Voleva il presidenzialismo, ma naturalmente con sé presidente. Poi si fermò perché commissionò un sondaggio, si usavano anche a quel tempo, dal quale venne fuori in modo chiaro che Andreotti con l'elezione diretta il capo dello Stato sarebbe stato Andreotti, perché bucava il video meglio di Craxi. Ma Andreotti perché non è mai stato presidente della Repubblica? Lei che sa tutto di questo. Ma guardi, io sono entrato in politica quando queste cose erano già consumate, quindi non glielo so dire. Sì. Di sicuro posso dire che Andreotti era il comunicatore d'eccezione della Democrazia Cristiana. Invece le conferenze... Non c'è stato un altro bravo come lui a comunicare col cittadino. Invece le tribune elettorali di De Mita erano terribili, erano... No? Ma la DC era fatta in un modo che se eri bravo e parlavi bene col cittadino ti mettevano intorno una cortina di sicurezza che ti rendeva innocuo. Cioè la Democrazia Cristiana consapevolmente... Un Berlusconi non se lo sarebbe mai dato. Ah, addirittura lei dice. Non si sarebbe mai dato un capo capace di parlare direttamente ai cittadini, perché era un partito con una certa abitudine un po' curiale, nel senso di avere i capi popolo collettivi e mai un leader assoluto. I capi popolo non piacevano, non so, quelli che trascinavano più che le masse. Altro c'era la paura di uno che piacesse più degli altri. Ecco, certo. Andreotti, che piaceva più di tutti, era visto come il capo della sua corrente, ma circondato anche di grande sospetto. Detto questo, nulla cambia. Anche oggi, se tu parli in un modo che la gente ti capisce meglio degli altri, non ti fanno andare più in televisione, perché non è che sia cambiata molto. Senta Rotondi, ma insomma, noi stiamo sviando un argomento, mi lascio affascinare da questi ricordi, da queste metafore della politica meravigliose, però oggi il suo sottosegretario... No, più che altro io mi attardavo perché cercavo di utilizzare i miei minuti per distrarla dalle domande più imbarazzanti. No, ma le domande imbarazzanti, qui la questione è una sola. La Santanchè, che è sottosegretario, suo sottosegretario d'attuazione del programma, ha detto che bisogna fare come in alcuni paesi, come la Spagna, per esempio, ha citato la Spagna, che hanno, insomma, diciamo la verità, le case chiuse, cioè la prostituzione legale. Io gliela concedo subito la frase che lei vuole. Se lei pensa che l'opinione della Santanchè mi ha scandalizzato, io le dico subito che non mi ha scandalizzato affatto. Ma io infatti non pensavo che lei fosse scandalizzata. Perché sinceramente il problema del nostro paese qual è? Che finché la prostituzione avviene anche in mezzo alla strada, però alla fine ognuno può dire che schifo, la cosa non ci riguarda, va avanti così. Se qualcuno avanza l'idea che questo fenomeno possa essere limitato e in qualche modo anche disciplinato, tutti dicono mai, perché se lo discipliniamo siamo complici in qualche modo. Esatto, ma lei è d'accordo allora con la legalizzazione? Io ho un'opinione che diciamo mediana, non mi dica che è in mezzo. Del problema, si forma prima del problema, nel senso che come politico di ispirazione cristiana ritengo che uno dei compiti dello Stato sia di combattere la mercificazione del corpo della donna o dell'uomo, perché oggi c'è una prostituzione maschile che, dicono gli esperti, comincia a viaggiare verso livelli quantitativi. Vabbè, ancora non siamo, donne, non no? siamo a quei livelli ancora. Beh, comunque leggo sui giornali che è un fenomeno in aumento. Quello dei gigolò, quello dei gigolò. Comunque ci sono pure uomini che si prostituiscono, quindi smettiamola di dire il corpo della donna. Oppure uomini che si prostituiscono, tu con l'ancestrale superbia maschile per cui le buone donne sono sempre le donne, no? Sì, siamo buone donne pure noi quando ci mettiamo, dire, no? Quindi la prostituzione ripristinata in modo bipartisan, che è maschile o femminile, lo Stato la deve combattere, punto. Perché vabbè, d'accordo, questo è il principio, questo è il principio però, Rotondi, andiamo, andiamo alla concretezza. Sono per l'idea che lo Stato debba combattere questo fenomeno, reprimerlo, sanzionarlo, impedire che si diffonda. Naturalmente colgo nella opinione di Daniela, della mia sottosegretaria, una provocazione, nel senso che da una parte è inutile dire tanto se c'è regolamentiamolo. Non è una cosa sbagliata. È tanto dire facciamo finta che non c'è e non ce ne occupiamo salvando l'anima in qualche modo. Ma insomma, lei le vedrebbe di buon occhio delle situazioni in cui o dei quartieri in cui ci sono anche delle diciamo case chiuse o no? Oppure io una... le devo dire la verità. Dei no. bordelli come le Svizzera. Le devo dire la verità, no. No. È una razionalizzazione del peccato, rispetto a cui può affascinare l'idea di una razionalizzazione, ma resta l'idea di un peccato che un cristiano non può certamente accarezzare come un'ipotesi da regolamentare, da disciplinare, da tollerare. Ho capito, dunque la notizia è, Rotondi, la Santa, due punti, la Santanchè ha sbagliato. No, perché mai dovrei dire questo? E chi dice che non sbaglio io? Questo attiene... a un, su questo c'è libertà di coscienza, diciamo. Libertà di coscienza sono temi sui quali non c'è né una linea del governo e manco direi una linea dei partiti. Il Parlamento sarebbe benissimo ad occuparsene. Io trovo che la provocazione di Daniela sia stata assolutamente utile, perché è bene che di queste cose si parli. Com'era la cosa straordinaria di questa sera? La razionalizzazione del... quella è bellissima. La razionalizzazione del peccato. La razionalizzazione del peccato che a lei non piace. È un concetto nel suo genere anche molto clericale, nel senso che il si fa ma non si dice non l'ha inventato certo Daniela. E a lei piace questa cosa? Certo, insomma, a me non, insomma, io sono dell'idea che tutto sommato... è bene che lo Stato mantenga un suo rigore nel combattere questi fenomeni. E dunque no alla razionalizzazione del peccato. Bellissima, grazie, buonasera. Naturalmente no anche al peccato libero sulle strade che c'è oggi. Lo so, però come si fa a conciliare le due cose? È molto difficile conciliare le due cose, è molto complicato. Ma infatti io le dico che è un tema che mi mette profondamente in crisi, nel senso che... Cosa mette in crisi? La sua coscienza di cristiano, naturalmente. No, guardi, come cristiano io sono per combattere il fenomeno e aiutare le persone. E dall'altra però bisogna togliere dalle strade. Certamente la Santanchè dice una cosa giusta. Il problema sa qual è? Che seppur noi regolamentassimo il fenomeno, aprissimo i bar, i retro bar, facessimo fare la fattura, lo sfruttamento ci sarebbe lo stesso, dice lei. Purtroppo il fenomeno è come l'idea di alcuni che dicono: siccome i drogati ammazzano le nonne, allora liberalizziamo la droga. Ma purtroppo questi fenomeni ci sono anche nei paesi in cui la droga è più libera. Non c'è tempo, se no le chiederei di Busi, va via dalla Rai, giusto? Io temo sinceramente che sia sulla droga che sulla prostituzione un'idea di disciplina più liberale non risolva assolutamente un fenomeno. Magari può limitarlo, magari può limitarlo. Secondo me alle strette non lo limita nemmeno. Borsa, grazie Rotondi, grazie. Arrivederci. Siamo qui alle 20.37, 800 24 00 24. Abbiamo il TG2, poi volata finale con gli ascoltatori e una sorpresina che ci verrà da Arezzo. TG2. Berlusconi attacca sull'arresto di Frisullo e dice: a Bari c'è un giudice vero, risponde Bersani in un'intervista alla TG2, non siamo intervenuti in tempo, pronto a sfidarlo in TV. Da Damasco il presidente Napolitano lancia un appello ai partiti, vanno superate le conflittualità che allontanano da considerazioni obiettive dei problemi del paese. Il Consiglio dei Ministri vara nuovi incentivi per 420 milioni, sconti anche su ecocase e lavastoviglie, più facili le ristrutturazioni, Confindustria, poche risorse. I traffici criminali dei casalesi al nord, al TG2 le registrazioni dei colloqui del boss Michele Zagaria, latitante da 15 anni con i suoi uomini. A Napoli una mostra e un convegno dedicati alla saga di Tex Willer, eroe del fumetto italiano, ha raccontato a piccoli e adulti l'epopea del West. Bene, andiamo direi a Alfonso, provincia di Caserta. Buonasera. Buonasera. Senta, io le faccio i complimenti per la trasmissione. Volevo dirle, siccome sono un imprenditore del Sud, praticamente vivo una situazione allucinante. I miei nemici risiedono praticamente nella giustizia, in quanto siamo vittime di abusi di potere e di abusi giudiziari, il tutto diciamo, è manovrato dalle multinazionali, le quali, datosi che noi siamo dei produttori di profumo di altissima qualità, a dei prezzi popolari, appena abbiamo iniziato a vendere questi prodotti siamo stati diciamo acclamati dal popolo e quindi abbiamo avuto una grande fortuna nelle vendite. Questo ha fatto sì che le multinazionali si siano subito armate contro di noi e hanno usato personale della Guardia di Finanza e hanno usato anche diciamo dei magistrati. Alfonso, mi scusi un attimo Alfonso, sì. Lei capisce bene che sto dicendo delle cose molto dure. No, molto ma al di là delle cose dure che sta dicendo la Guardia di Finanza, i magistrati, eccetera, io non so di cosa sta parlando, francamente. Sì, per cui... ma le sto dicendo. No, ma ho capito, ma non possiamo fare qui una sorta di processo alle multinazionali. Ma non posso nemmeno raccontare la sua storia perché non. No, non è la mia storia. A meno che non sia facilmente comprensibile a tutti, sì, di che stiamo parlando? Le voglio dire questo, almeno una cosa me la faccio risolvere. Ma la dica, ho capito, Alfonso, lei mi vuole parlare della situazione di un'azienda. Multinazionali, la Guardia di Finanza. Se mi fa dire solo una cosa, poi se ritiene opportuno. E purtroppo io devo far capire chi sono, che cosa faccio, che cosa è successo. Allora, voglio dire una sola cosa: è possibile che una ditta viene accusata di essere aperta e una ditta che non esiste? Attenzione, ci riferiamo ma a una ditta che non esiste. Accusata di essere aperta, Alfonso? È accusata di essere aperta e di produrre. Quindi c'è una ditta che non esiste e una multinazionale riesce a ottenere da un giudice un provvedimento contro una ditta che non esiste. Scusi, Alfonso, senta un attimo una cosa. Guardi, io non la posso seguire su questo terreno. Lei mi mandi una mail con la sua, con quello che ha da dire, parliamo. Ma no, non le mando niente, la ringrazio. Grazie a lei, arrivederci. Calogero da Palermo. Cosa vuole che le dica, Alfonso? Di che parliamo? Cioè, non possiamo metterci a parlare 10 minuti su una storia di cui non conosco le coordinate. Calogero da Palermo, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Volevo intervenire io sulle parole ormai divenute famose di Aldo Busi. Io premetto che sono state sicuramente le parole eccessive, improvvide, forse anche esasperate dalla situazione che viveva in quel momento, però credo che volesse manifestare un'insofferenza verso il fatto che la Chiesa non ha mai dato grossa importanza al problema dell'omosessualità e della pedofilia, o se comunque ha dato importanza ma sempre al suo interno, cioè non ha mai esternato a questa cosa, ha cercato sempre di governarla dall'interno e comunque ha iniziato molto tardi a fare un mea culpa su questo fatto. E questa opinione dico che non so se è del senso comune delle persone, anche è stata supportata da una notizia che avete dato voi 2 giorni fa dell'arcivescovo di Dublino, sì. Credo Sean Brady. Però io ripeto, c'è una grande discussione anche all'interno della Chiesa Cattolica su questa questione, gli interventi anche molto duri di Papa Ratzinger, anche un cambiamento da qualche anno a questa parte nell'atteggiamento delle autorità ecclesiastiche. Di tutto questo si parla, si può continuare a parlare, non è questa la sede, eccetera. Però cosa significa questo? Che le cose che accadono o che sono accadute in Irlanda o in Germania o da altre parti giustificano l'intervento di Busi? Mi scusi. No, assolutamente. Dico, io ho parlato di una situazione di parole eccessive, improvvide e anche in una situazione esasperata. Dico, sicuramente, dico, sono da prendere con le pinze, c'era in una situazione che abbiamo visto tutti, quasi di delirio. Però, dicevo, quello che io da cittadino comune, quindi da persona che cerca anche di farsi delle opinioni, che cerca di capire un po' quel mondo che gli sta attorno, secondo me, dico, la Chiesa ha iniziato un po' tardi, dicevo, in questo ammettere che comunque... Ma questo qua è, questo è vero. E quindi questo poi, dico, alla fine può dare sicuramente un po', dico così, sicuramente di fastidio, perché è chiaro che ovviamente... No, ma Calogero, guardi, io sono d'accordo con lei, ripeto, non è l'argomento di cui abbiamo parlato con riferimento alla vicenda Busi, lì c'è un'altra discussione, poi se vuole possiamo... Per diciamo collegarmi dico a quello che lei dice. L'anticlericalismo su questo punto è giustificato nel caso della pedofilia anche da un atteggiamento a lungo reticente da parte della Chiesa. Sì, potrebbe esserci. E poi volevo anche dare un plauso a voi, onestamente, perché io dico vi ascolto molto spesso anche nei notiziari, perché dico, ora non ho la possibilità di vedere sei telegiornali o leggere diversi quotidiani, però la notizia dell'arcivescovo di Dublino, che lei credo che sappia benissimo a cosa mi riferisco, quindi di quel fatto risalente al 75, e allora praticamente dico, mi pare che sia passata solo da voi. No, Calogero, è stata di credere. Non l'ho sentita due giorni fa in nessun telegiornale, dico, mi può sfuggire, per carità, io non ne vedo sei al giorno, però dicevo che io in macchina a casa quando queste cose sono passate e se ne è parlato. Grazie Giuseppe da Milano, buonasera Giuseppe. Buonasera, senti, io volevo dire semplicemente qualche cosa quanto riguarda l'onorevole Rotondi. Dica. È stato 3 ore al telefono per non dire niente. Ogni tanto succede. Ha detto delle, non vorrei dire lasciamo perdere, però voglio dire, lei ha fatto una domanda ben precisa, no? A questa domanda ben precisa si è preso parecchi minuti per dire che era contrario. Per dire che è contrario alla legalizzazione della prostituzione. Però lo ha fatto alla democristiana, a modo suo, dicendo i valori... Questi... sono i politici, scusi, al di là del colore, che poi siano di destra o di sinistra... Che a lei non piacciono. Perché ci sono... Che questi sono la rovina dell'Italia. Addirittura, Giuseppe. No? Sì, guardi, sono politici che non fanno niente, ricoprono delle cariche, giusto per prendersi lo stipendio, no? Però che non fanno niente. Cioè, una persona che non prende posizione, Sgarbi, che diciamo che è prestato alla politica, ma grazie a Dio mi hanno pigliato le posizioni ben precise, se ne piglia le responsabilità. Va bene, grazie Giuseppe. La sua opinione su Rotondi. 20:45. Siamo qui 20:47 800 24 0024 con Claudio Morganti, che è segretario della Lega Nord in Toscana. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Senta, Morganti. Anche ero parlamentare. Va bene, ero parlamentare. Non si metta gradi in più, insomma. No, va bene, scherzo. No, senta, qui apprendiamo una cosa: che i militanti della Lega Nord distribuiscono ad Arezzo, nei mercati, delle bustine contenenti sapone liquido con l'avvertenza di usarlo dopo aver toccato un immigrato. Sì. È vero? È assolutamente falso. Come è falso? È una cosa... Intanto non è sapone, ma è gel igienizzante. Vabbè, gel igienizzante e sapone, non mi faccia questa differenza, perché la cosa non rileva come differenza. No, c'è un motivo. Secondo, è falso perché è un gadget nostro che viene distribuito in tutti i gazebi nostri in tutta Italia. Quindi dal nord fino a dove la Lega è presente con le elezioni, fino in Toscana, è un semplice gadget di utilità come tutti gli anni ne facciamo, quindi insieme a quello diamo pacchetti di matite, diamo... Ho capito, d'accordo, questo l'ho capito, però è vero che c'è l'avvertenza di usarlo dopo aver toccato un immigrato? Ma assolutamente, viene distribuito con i volantini. È un semplice gadget elettorale dove c'è scritto vota Lega Nord. Anno scorso avevamo i fazzolettini con le bustine di zucchero. Cioè non c'è scritto nulla? Non c'è scritto assolutamente. Nulla? Assolutamente, c'è il simbolo della Lega, hanno scritto vota e il simbolo della Lega. Però mi sembra strano perché qui noi vediamo delle dichiarazioni di fuoco e mi sembra che non possano nascere da un bigliettino dove non c'è scritto niente, c'è solamente il sapone o il, come si chiama, il gel igienizzante. Beh, io gli posso giurare, ed è un gadget che ci ha fornito la sede di Milano Federale, sì, in cui c'è solo scritto vota e il simbolo, e se vuole io gliela mando anche una copia tranquillamente. Credo che questo sia solo... E come può essere accaduto, scusi? Qualche militante avrà detto qualche frase? Cioè non c'è scritto nulla in questo gel igienizzante? Non c'è nessuno scritto. Io credo che sia solo un opportunismo, uno sciacallaggio politico di una parte politica che sta vedendo un movimento in forte crescita. Vabbè, questo e lasciamo sta rubendo voti a sinistra. Vabbè, questo è la verità. Un altro discorso. Ma dunque non c'è nulla, non c'è nessuna scritta, nessuna su un banchetto, non c'è stato niente... Nulla, niente, di nulla. Noi abbiamo il nostro gadget, abbiamo i nostri giornalini che spiegano il programma della Lega Nord Toscana. E poi cioè questo gadget non è associato a nessun biglietto, no, a nessuna bustina dove c'è scritto sopra vota e il simbolo della Lega, come tutti gli anni facciamo, regalandoli come materiale pubblicitario prima delle elezioni a tutti i cittadini. Ho capito, controlliamo. Grazie Morganti, buonasera. 20:50, Francesco da Milano. Buonasera, volevo intervenire su un paio di punti. Il primo è merito alla Santanchè come prostituzione e quant'altro. Quindi io che vada legalizzata la prostituzione, perché comunque ne trarrebbe beneficio lo Stato, i clienti e comunque coloro che, diciamo, esercitano questo tipo di professione. Mm. Perché comunque io sono stato in Repubblica Ceca, a Praga, e comunque lì ci sono locali in cui che lei ha frequentato? No, non ho frequentato, però comunque. Ma non c'è niente di male, ce lo può anche dire, non c'è... No, ma lo potrei dire benissimo, se l'avesse, non è un problema. Il problema, le cose che appunto lì questi locali si sa che sono le donne svolgono questo tipo di professione e comunque sono appunto legali e quant'altro, e sono molto meglio che come l'Italia sulla strada, dove comunque appunto è negativo sia per... No, ma Francesco, guardi, con me sfonda la porta aperta su questo argomento. Io credo che se noi facessimo un sondaggio ci sarebbe il 90% delle persone. E secondo me il motivo per cui in Italia appunto ancora... E qual è il motivo? È la Chiesa. È il... Ma no, ma non è secondo questo. Me è un po' sì, comunque in maniera indiretta. Mm. Perché c'è un'incapacità di fare riforme radicali, questo è il punto. Mario da Novara, buonasera, veloci perché andiamo verso la conclusione. Mario, buonasera a lei. Dica. Guardi, come il radioascoltatore che appunto le ha appena parlato, pure io sono, diciamo, favorevole a che, diciamo, la cosa si legalizza sul, diciamo, la prostituzione. Perché comunque voglio sottolineare che tanta gente che si dichiara contro queste cose generalmente sono dei falsi moralisti, perché noi vediamo che poi queste persone fanno dei viaggi organizzati in Thailandia, Cuba, oppure fanno come Sircana. Vabbè, Mario, a parte che era Sircana e non Sircana, lasci perdere il caso Sircana, non è che adesso le stesse persone, lei dice, che fanno i moralisti, poi sono quelli che vanno a prostitute a Cuba oppure da altre parti. Vabbè, adesso questa è una generalizzazione, Mario, non è che ci possiamo mettere a parlare in questo modo. Noi l'abbiamo, ed è stato anche dimostrato che certe persone sono state, diciamo, poi, diciamo, beccate dalla finanza, perché... Vabbè, magari erano quelle che lo pensavano anche prima che fosse necessario legalizzare, mica ha detto che facevano invece i moralisti. Mario, senta, scusi una cosa, ma io voglio sapere, lei è favorevole dunque alla Santanchè, tu, giusto? Sono favorevolissimo. Ho capito. Lei ci andrebbe oggi in una casa chiusa, in un bordello, ci andrebbe, lo frequenterebbe? Eccolo. Guardi, lì. Io ho 50 anni. Io praticamente, quando a 20 anni, perché è un dato di fatto, l'uomo è fatto così, quando mi giravano le cose in testa, se io potevo andare in una casa, ci andavo di corsa, e dopo ero molto più tranquillo. E dunque adesso di corsa ci andrebbe? Ma no, scherzo. L'abbonamento, no, ma che scherza, altro che sì, scherzo. No. Farebbe l'abbonamento. Magari lì ti fanno il 3x2, sai. Che è il 3x2, scusi? Sì, ah, lo sconto. Paghi due, ne prendi tre. Ah, in quel senso. Vabbè, Mario, lei farebbe l'abbonamento. Sottolineiamolo, che ci sono tanti falsi moralisti. Ma sì, ma lo so, Mario, lo so. Ma dai, cioè, io mi ricordo di un caso a Verona qualche anno fa di un genitore che aveva il figlio un po' timido, sì, no? Voleva fare conoscere una persona così, diciamo, farla avere un'esperienza, l'hanno beccato i carabinieri, insomma hanno portato una tragedia in casa di questo signore che poi non so se poi ha divorziato con la moglie, un casino. Ma io dico, fanno una pubblicità dell'acqua in televisione e ti fanno vedere seno, sedere. Vabbè, Mario, però lei mi sembra un po', da questo punto di vista, i bollenti spiriti. Insomma, si calmi un po'. Io insomma. Parlo. Dato quanti anni ha lei? Quanti anni ha? Io ce n'ho 50. Vabbè, insomma, certo. Ma parlo oggettivamente alla realtà. Lei mi nega che il sesso non è usato per fare delle pubblicità per attirare le persone. E come no, certo. E certo. Allora i ragazzi, lei si mette nei panni di chi magari è un po' timido e così. E dunque lo dica. Tutti questi messaggi. Ho capito, dunque lo dica, viva le case chiuse. Viva le case chiuse. La ringrazio. E invece Rotondi pensa che sia un errore, che cosa? La provocazione di Daniela sia stata assolutamente utile perché. È bene che di queste cose si parli. Com'era la cosa straordinaria di questa sera? La razionalizzazione del... Quella è bellissima. La razionalizzazione del peccato. La razionalizzazione del peccato che a lei non piace. La razionalizzazione del peccato. E con questo chiudiamo. Cioè, secondo Rotondi, legalizzare la prostituzione è razionalizzare il peccato. A lunedì 18:30. Ciao. La Zanzara.